e all'inmila e lì gestisci un lanciano di mia 24 mattino. Sono le 7:20 minuti in questo istante. Allora, cari ascoltatori, ben ritrovati a 24 mattino, è lo spazio dedicato alla lettura dei giornali, quindi siamo in piena rassegna stampa. Andiamo, caro Peter. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a giovedì 8 giugno, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore opta per la questione banche spagnole. Il salvataggio lampo, questo è il titolo di prima pagina, con l'istituto spagnolo Banco Popolare che evita il fallimento passando al gruppo Santander per il simbolico prezzo di un euro. Chiaramente poi c'è anche un'ottica su quello che potrebbe essere la situazione italiana e che vedremo più tardi. L'attualità internazionale è in apertura per il Corriere della Sera, ma dagli Stati Uniti Trump disse non indagare. È l'atto d'accusa dell'ex capo dell'FBI James Comey, rimosso proprio da Trump e che deve fare la deposizione al Senato. Avvenire invece, Daesh contro l'Iran, l'incendio si allarga, attentati nel cuore di Teheran, sarà vendetta. E poi, come stride tutto ciò con la legge elettorale italiana e il dibattito politico? Repubblica, legge elettorale sul filo, caos, Movimento 5 Stelle e PD. Messaggero, Movimento 5 Stelle vacilla ma il patto regge. Per il giornale Grillo Napolitano, nasce l'asse dei mestatori. Per il giorno il salto del Grillo sulla legge elettorale. Libero invece, politici allo sbando, brutti, sporchi e incapaci. Questo è il titolo dedicato ai politici per Libero. Mentre il Fatto Quotidiano ha un sondaggio, la sinistra unita può arrivare al 16%, è un sondaggio IPR Marketing proprio per il Fatto, sulla sinistra unita, e si mette come Roberto Saviano il candidato che potrebbe portare più voti. La Verità invece ha una notizia su Boschi padre, indagato per mafia il consulente del padre di Maria Elena Boschi. Si tratta di Michelucci. La Stampa invece torna sulla questione Torino, mai sopita, le polemiche dopo la vicenda di Piazza San Carlo durante la finale di Champions League, forze di sicurezza e protezione civile, il piano antipanico. E questo è il colloquio con il ministro Minniti in visita a Torino. Ma vogliamo partire dalla notizia che certo dovrebbe preoccuparci di più, anche se magari ci mancano un po' gli strumenti per capirla, essendo lontana e riguardando un mondo complicato da capire e un'attualità internazionale con uno scacchiere veramente sempre più difficile, cioè quello che è successo in Iran, il doppio attacco a Teheran rivendicato dall'ISIS, che apre dunque il fronte iraniano, perché per la prima volta anche la capitale dell'Iran viene colpita dal terrorismo islamico. Il Parlamento, leggo dalla cronaca di pagina 10 del Corriere della Sera di Viviana Mazza, il Parlamento e il mausoleo dell'imam Khomeini sono stati colpiti ieri da attacchi coordinati rivendicati dall'ISIS che hanno provocato 12 morti, 39 feriti. È la prima volta che il califfato riesce a colpire il paese a maggioranza sciita e dunque apostata agli occhi dei jihadisti sunniti. Anche se l'Iran è impegnato con truppe, consiglieri e aiuti militari a fianco dei governi di Siria e Iraq, si sentiva sicuro all'interno dei propri confini. Invece 6 attentatori, 5 uomini e una donna armati di Kalashnikov, bombe a mano, cinture esplosive, divisi in due gruppi, hanno iniziato l'assalto al Parlamento e al mausoleo rispettivamente alle 10:30 e alle 11 del mattino. L'ISIS ha pubblicato online un video girato all'interno del Parlamento in cui gli attentatori parlano in arabo e dicono: pensate che ce ne andremo? Resteremo per sempre. È uno degli slogan di Al-Adnani, portavoce dell'ISIS, ucciso in Siria. Tutti e 6 i terroristi sono morti, alcuni facendosi saltare in aria, altri eliminati, ma alcune fonti sostengono che uno di loro abbia inghiottito una pillola di cianuro. Questo dunque è quello che è successo. Ovviamente le analisi tutti guardano al recente viaggio di Trump in Arabia Saudita, al fatto che di recente i paesi arabi sunniti hanno isolato il Qatar, accusandolo, ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi, accusandolo di essere troppo filo iraniano. Ed ecco allora la risposta dell'ISIS. Però vi sottopongo il commento di Daniele Raineri sul Foglio in prima pagina, perché tutti guardano all'Arabia Saudita, no? Anche nemico dell'Iran. E invece Daniele Raineri dice: no, l'attentato dell'ISIS a Teheran non è un attacco saudita contro l'Iran, come sostengono in molti. Molti osservatori hanno subito cominciato il gioco della colpa. Ah, se l'Arabia Saudita detesta l'Iran e lo Stato Islamico attacca l'Iran, allora l'Arabia Saudita deve essere per forza il mandante. Puntano il dito verso il contesto internazionale, che vede una contrapposizione molto pericolosa tra l'Arabia Saudita e i suoi alleati sunniti nel Golfo da una parte, e l'Iran sciita e alcuni alleati come la Siria, il gruppo armato Hezbollah, il governo siriano e la Russia dall'altra. I due fronti si contendono l'egemonia regionale, spesso finanziano e armano gruppi di guerriglieri, ma non l'ISIS, per farsi la guerra. In più, la situazione si è aggravata perché il fronte sunnita ha espulso per punizione il Qatar, considerato troppo soft con l'Iran. Tuttavia, non è il caso dell'attacco di ieri. Continua Raineri. In questo attacco l'Arabia Saudita non c'entra, perché lo Stato Islamico è un gruppo che è capacissimo di far danni spaventosi nella regione da solo e senza aiuti esterni. Lo Stato Islamico odia l'Iran, perché è la nazione che guida gli sciiti. E il fondatore dello Stato Islamico, al-Zarqawi, considerava gli sciiti degli scorpioni velenosi, molto più pericolosi degli americani. Anche oggi la visione sull'Iran non è cambiata, è una nazione di eretici per l'ISIS, pericolosi, che ha tradito l'Islam. Più che il contesto internazionale, vale la pena di ricordare due discorsi del portavoce dello Stato Islamico, al-Adnani. Uno del luglio 2011 che diceva: credete che siamo finiti? Davvero pensavate che ce ne saremmo andati? E guarda caso, sono proprio le parole che uno dei terroristi dice nel video iraniano. Il significato è chiaro se si pensa che in questi giorni comincia l'offensiva curdo-araba per prendere Raqqa. Il finale è scontato, lo Stato Islamico perderà, quindi è il momento di bruciare 5 terroristi in un attacco che apparirà sui notiziari di tutto il mondo. Il secondo discorso, maggio 2014, intitolato «Chiedo scusa o emiro», l'emiro era l'egiziano al-Zawahiri, capo di Al-Qaeda, e lì il leader dell'ISIS Adnani spiegava che non era più tempo per lo Stato Islamico di rispettare Al-Qaeda, perché il suo gruppo era molto più potente. E in questo discorso diceva il leader dell'ISIS: non abbiamo mai attaccato l'Iran perché questo era il volere di Al-Qaeda, ma ora si colpisce proprio in Iran. No, ma le analisi sono queste. Noi parleremo anche alle 8:15, approfondiremo, avremo padre Samir Khalil Samir, che è un profondo conoscitore di quelle aree del Medio Oriente, e vedremo di darvi qualche spunto di riflessione. Uno spunto di riflessione lo deve dare un numero che appare su tutti i giornali italiani, e quindi veniamo alle questioni più italiane. Il numero è questo, signori: 12 milioni e 200 mila. 12 milioni e 200 mila italiani rinunciano alle cure sanitarie perché non hanno i soldi. Altro che legge elettorale, ma non lo dico perché la legge elettorale non sia importante. Certo, il dibattito poi lo vedremo, ne approfondirò sui giornali, c'è tutto il dibattito, si vota, non si vota. Ma appunto il dibattito è ombelicale sulla legge elettorale, giusto votare o no. Ma prendete questo numero, cari politici, e fate una riflessione seria e date delle soluzioni. 12 milioni 200 mila italiani hanno rinunciato o rinviato le cure per motivi economici o anche per i tempi di attesa. Flavia Amabile dedica una pagina, proprio il titolo è sulla stampa, questa cifra a caratteri cubitali, 12 milioni 200 mila. La sanità, dunque, è al collasso. Serviranno più di 1000 euro a testa per pagare esami, medicine e terapie. I soldi spesso non ci sono, si va privatamente. E quindi, quando non ci sono, la gente rinuncia alle cure. A proposito di numeri, questo è un altro numero, 7.000 euro al giorno. La truffa da 7.000 euro al giorno, su che cosa? Sull'accoglienza dei migranti. Racconta La Stampa con Fabio Poletti a pagina 6 che un imprenditore del Bresciano è nel mirino, si chiama Angelo Scaroni, che non sapendo più dove mettere 8 pakistani qualche mese fa li aveva stipati addirittura in un'ala del resort super lusso a Borgo Macchetto di Desenzano. Poi fallito, peraltro. I clienti si erano lamentati, la Lega era scesa in piazza. Ma Angelo Scaroni, imprenditore bresciano nel settore del legno immobiliare, da qualche tempo si era inventato il business dei migranti. In procura, dice La Stampa, c'è un dossier alto così su di lui. Lo schema è sempre il solito, si aggiudicava ogni bando dal 2015 per ottenere autorizzazione ad alloggiare migranti e richiedenti asilo, visto che lo Stato paga per loro 35 euro al giorno ciascuno, che fanno entrare nelle tasche dell'imprenditore sotto inchiesta più o meno 7.000 euro al giorno, solo che utilizzava anche appartamenti che non erano in suo possesso, questo secondo l'accusa, segnalava anche appartamenti che esistevano solo sulla carta della domanda, questa è un'altra accusa. Lui dice chiarirò tutto, ma secondo la procura è stata una truffa che fruttava 7.000 euro al giorno per l'accoglienza dei migranti. Ma signori, per l'articolo che mi fa il pinzur della giornata non posso non utilizzare le indiscrezioni che riguardano l'allenatore della Juve Allegri. Proprio questa è da mani sul volante, vero e proprio, pare che pizzicato, ma prima della finale del Champions League, la notizia è venuta fuori adesso, pizzicato dai vigili urbani in centro a Torino al volante con il telefonino, pare che Allegri sia sbottato due volte dicendo falliti ai vigili urbani che giustamente gli stavano facendo il verbale della falli. Tra l'altro non è la prima volta, anche quando era allenatore del Milan c'è un precedente del 2008 pare in cui abbia litigato furentemente con le forze dell'ordine, non so se in quel caso, forse anche in quel caso erano vigili urbani che l'avevano fermato. E infatti oltre a questo leggo anche Il Caffè di Massimo Gramellini, Allegri e falliti. Non sorprende che Allegri si sia scagliato contro i vigili torinesi talmente sfrontati da multarlo perché guidava col telefono in mano e senza patente. A dispetto del galateo esibito alle telecamere, il formidabile allenatore vice campione d'Europa è un fumino che vanta numerosi precedenti dialettici con le forze dell'ordine. A colpire semmai è l'epiteto rivolto ai ragazzi in divisa. Falliti! Intendiamoci, a Livorno chiamò Terroni i carabinieri che avevano osato fermarlo. Ma questo falliti ha un significato più contemporaneo, come se nella sacrosanta sanzione inflittagli dai vigili, Allegri vedesse la rivalsa sociale di una casta inetta e invidiosa di burocrati, smaniosi di usare il loro piccolo potere contro di lui perché non sono stati capaci di diventare uguali a lui. Anche il marchese del Grillo, io so io e voi non siete un cazzo, trasgrediva impunemente le regole, ma proprio per questo si considerava un privilegiato. Invece coi Corona, i Briatore, i Trump e adesso gli Allegri, irrompe sulla scena il populista d'alto bordo, il miliardario anarchico che si atteggia vittima di un potere incarnato dai dipendenti pubblici che guadagnano, quando va bene, 1.500 euro al mese. Si chiama spirito del tempo. Basta fare un giro tra i commenti della rete per trovare tanti poveri cristi che, in odio ai vigili, esprimono solidarietà incondizionata al miliardario e bollano i suoi critici come radical chic. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il largo e facile dell'informazione. Beh sì, questa vittoria larga e facile pronosticata da Marione Di Nolfi qui da noi per la Juventus in Champions League lo perseguiterà un pochettino. Vinciamo largo e facile. Largo e facile, ma non era un tifoso del Real Madrid a dirlo, eh? Era proprio Marione Di Nolfi. Vabbè, quando si fanno i pronostici si possono anche sbagliare. Allora, la legge elettorale in aula ed è stata accolta subito da almeno 72 franchi tiratori, cioè coloro che vanno a votare e impallinano le leggi votando in pratica in maniera diversa da ciò che dovrebbe essere appartenendo a un partito che appoggia quella stessa legge. Tra l'altro tutti guardano al Movimento 5 Stelle come il movimento che in questo momento sta vivendo un po' il dramma interiore del dibattito se appoggiare o no questa legge, tanto che Beppe Grillo ha detto rivoterà il blog e si esprimerà prima che la legge elettorale settimana prossima torni per il voto finale martedì. Dunque, la cronaca intanto parlamentare. Dino Martirano, partenza in salita, scrive sul Corriere della Sera, pagina 2. Rinvio del voto finale a martedì imposto dai grillini per la legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5%, che pur sostenuta da PD, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, supera non senza affanno e con molte defezioni i primi due voti segreti alla Camera. Continua l'assedio a Renzi, al partito del voto anticipato a tutti i costi. Ora, dopo Prodi, Napolitano, eletta anche il ministro Carlo Calenda, torna sul tema dicendo che le elezioni a settembre sono un errore, serve calma perché questo paese deve terminare le riforme che non ho voluto io ma il governo Renzi. Dunque, alla prima prova, la coalizione a 4, mancano 72 voti. Questo, i primi voti segreti. E qui c'è il rischio che salti tutto, è inutile negarlo. C'è il rischio che salti. E allora Francesco Verderami racconta nel retroscena, pagina 3, il problema non sono il voto disgiunto, il voto di preferenza. Sulla legge elettorale il Movimento 5 Stelle ha un problema politico e sa di trovarsi davanti a un bivio. Può rompere l'accordo sul tedesco o rispettarlo e in tal caso riceverebbe il benvenuto nel club della casta. Peggio, sospira un deputato grillino, a colloquio con lo scissionista stumpo, ci darebbero il benvenuto nel club dei partiti. Ecco cos'è in gioco, secondo il parlamentare del 5 Stelle. Cioè, scrive Verderami, il Movimento 5 Stelle di fronte a una prova al termine della quale potrebbe essere additato come, ecco, vedete, avete fatto l'accordo con i partiti, quindi siete un partito, siete tali e quali a loro, certo diversi nel modo di pensare, eccetera, ma siete un partito. E questo è ciò che gli ortodossi, vengono dipinti così, del Movimento 5 Stelle, che vengono identificati con capo Fico, non vogliono, mentre invece quelli come Luigi Di Maio vengono identificati dai giornali come coloro che spingono Beppe Grillo a dire no, bisogna fare questo accordo, conviene. L'ala ortodossa invece spera nel dietro fronte di Grillo, che la situazione sia confusa. Lo si capisce anche dalla retroscena di Tommaso Ciriaco a pagina 3 di Repubblica. Nel bel mezzo della battaglia spietata per il controllo del movimento, Luigi Di Maio spiana le barricate degli ortodossi con una telefonata. Beppe, scandisce al cellulare con Grillo, noi questa legge dobbiamo portarla a casa. Dunque, esultano al momento Di Maio e Davide Casaleggio, che sono gli sponsor del patto con Renzi. Arranca Roberto Fico, capo degli antigovernisti a 5 Stelle. E forse in tutta questa situazione anche di che non fa mancare qualche momento di burletta, non è male la battuta di Alessandro Di Battista, che mentre rulla l'ennesima sigaretta di tabacco intrattiene le truppe e nel cortile affollato di Montecitorio dice «Quando vi chiedono della legge elettorale, voi rispondete intonando Despacito». Quindi calma e gesso. Cioè vi chiedono delle e voi intonate Despacito. Questa è la risposta di Alessandro Di Battista, va bene. Allora, in tutto questo per il giorno Grillo è come Ponzio Pilato, l'ultima parola spetta al blog. Per il Corriere della Sera, o meglio per Silvio Berlusconi non fa drammi, racconta Salvatore Dama. Ci perde solo il PD e quindi siamo su Libero. In tutto questo Silvio Berlusconi prende anche carta e penna e scrive una lunga lettera al Corriere della Sera, pubblicata in prima pagina e poi a pagina 5. È una risposta al professor Angelo Panebianco. In questa lettera Silvio Berlusconi difende il sì al sistema tedesco, dicendo in pratica magari non sarà il sistema migliore, ma che dobbiamo fare in questa situazione è il sistema meno peggio. E quindi legge elettorale, signori, non scampate, questa è la notizia politica del giorno. Certo, in notizia politica La Verità mette anche questa in prima pagina, sparata tutta pagina, Giacomo Amadori, indagato per mafia il consulente del padre di Maria Elena Boschi. Si tratta di Giuliano Michelucci che, tramite un giro di massoni, racconta la stampa, venne incaricato di trovare finanziatori per Banca Etruria. In questa inchiesta definita Emilia sul potere delle cosche della Regione Rossa, è accusato di aiutare le aziende ad avere i certificati antimafia. Ed è rimasto coinvolto in questa inchiesta, è il cosiddetto uomo del sistema, servizi segreti, a cui si era affidato Boschi Senior, dunque il padre, per risolvere alcuni problemi con Banca Italia e trovare finanziatori per l'istituto in difficoltà, cioè Banca Etruria. Tra l'altro racconta la verità quando ci fu un'occasione in cui fu presentato addirittura come possibile salvatore di Banca Etruria un oscuro pakistano, Abdul Aziz Jamaluddin. Il 4 giugno 2014 venne ricevuto da Boschi al piano nobile della banca, e questo cittadino pakistano sosteneva di poter investire 300 milioni di euro. Ovviamente di quei soldi ad Arezzo non arrivò nemmeno un centesimo. Nel gennaio 2016 uscirono sui giornali le prime notizie sui rapporti tra Carboni e i vertici della banca. E vabbè, questo è un fronte aperto del renzismo, secondo la verità, questa notizia, secondo cui il consulente del papà della Boschi è indagato per mafia. Va bene, è il momento di andare anche oggi al traffico. Alessandro Milan, dell'informazione, insomma. Va benissimo, insomma. Allora, c'è questa notizia che riguarda un'inchiesta sempre coinvolto il NOE, e cioè Carabinieri, Nucleo Operativo Ecologico. Il NOE di nuovo, effettivamente, questo è l'inizio dell'articolo di Maria Elena Vincenzi, dopo che il capo del NOE Scafarto, anche uno dei responsabili del NOE Scafarto, era stato coinvolto per la vicenda, l'affare Consip. Ora è indagato il numero 2 del NOE. Si tratta di Alessandro Sessa, interrogato ieri a Roma, è accusato di depistaggio. Avrebbe mentito ai PM sulla data in cui informò il comandante dell'indagine sulla Consip. E ovviamente tutti i giornali raccontano di questa vicenda sempre più nebulosa, che ora vede coinvolto anche il numero 2 del NOE. Certo, è nebulosa anche la vicenda, se ci spostiamo in scenari internazionali, che coinvolge il presidente americano Donald Trump, perché arriva nei suoi confronti un'accusa molto pesante. Qualcuno ha parlato nei giorni passati anche di possibile impeachment, se tutto ciò fosse confermato. Perché l'ex capo dell'FBI, James Comey, rimosso proprio da Trump, in Senato ha accusato la Casa Bianca dicendo interferì nell'inchiesta del Russiagate, come viene definito. E quindi James Comey dice che Donald Trump gli chiese di interrompere le indagini sui rapporti tra i russi e Michael Flynn, collaboratore del presidente, poi nominato consigliere per la sicurezza nazionale. In più, il presidente fece pressioni sull'ex direttore dell'FBI Comey perché lo scagionasse pubblicamente da questa inchiesta sul Russiagate. Comey poi è stato licenziato in tronco lo scorso 9 maggio proprio da Trump, e oggi ricomparirà nell'audizione davanti alla Commissione Intelligence del Senato per parlare. L'attesa è stata spezzata ieri dalla diffusione del promemoria che l'ex capo dell'FBI ha consegnato ai senatori. Diario con 5 date, le 5 giornate di Comey che possono mettere a rischio la presidenza Trump. Così Giuseppe Sarcina racconta sul Corriere della Sera, pagina 8, questa sicuramente è una notizia che nei prossimi giorni evolverà e potrebbe davvero regalare delle sorprese e anche delle situazioni potenzialmente pericolose politicamente parlando per Donald Trump. Ovviamente tutti guardano anche le elezioni in Gran Bretagna, una vicenda che ci sarà oggi e che si intreccia inevitabilmente con la questione sicurezza, visto che dovevano essere elezioni sulla Brexit, no? Chiamate proprio da Theresa May a dire ci vuole un governo forte sul tema Brexit, eccetera. Poi ci sono stati gli attentati, l'ultimo attentato di Londra, e allora è chiaro che diventano anche delle elezioni in cui ci sarà anche la questione sicurezza sullo sfondo, o chissà se non diverrà la vicenda principale nelle elezioni. Tra l'altro, sulla questione sicurezza, Minniti, ministro dell'Interno, è andato a Torino per verificare la situazione e vedere che cosa si deve fare per non ripetere le scene che sono viste sabato durante la finale di Champions League in Piazza San Carlo. Ebbene, protezione civile, vigili urbani per gestire la sicurezza in piazza è quello che Minniti propone come soluzione. Tra l'altro, nel giorno in cui si racconta la storia anche delle persone che sono rimaste ferite, e guardate che si è parlato di una situazione che poteva andare molto peggio, ma ci sono delle persone gravemente ferite. Una di queste è una donna, ha 38 anni, è la più grave dei feriti e i medici non riescono a svegliarla dal coma. La sua storia è raccontata da Erika Di Blasi a pagina 15 di Repubblica. Eccola qui la battaglia di Erika, la vita appesa a un filo per colpa della follia. Purtroppo non abbiamo buone notizie. La banalità di una tragedia accaduta senza un vero perché sta nell'attesa angosciata dei genitori di Erika Pioletti, donna di Domodossola di 38 anni, rimasta coinvolta negli incidenti di Piazza San Carlo. Un'altalena di speranze, disillusioni tra un bollettino medico e l'altro, pensando a quel nulla che ha scatenato il panico terribile e travolgente al quale ora è appesa la vita della loro figlia. Anna e Giulio, scesi a Torino dal loro paesino nel Verbano con neanche 1400 abitanti, da 3 giorni ormai non la lasciano sola. A tu per tu con un destino che, senza che esplodesse una bomba o fosse sparato un proiettile, ha immobilizzato Erika in un letto d'ospedale, incosciente, senza che nemmeno i medici sappiano se si risveglierà e se tornerà a fare la vita di prima, e senza che nessuno sappia ancora rispondere a una domanda: perché la 38enne respira grazie a una macchina. Quindi vedete che quando si è parlato di tragedia lo è veramente, perché c'è una persona, in questo caso questa donna di 38 anni, che di fatto lotta tra la vita e la morte ed è in coma e non si sa se si risveglierà e in quali condizioni. Va bene, ci sono tante notizie che si potrebbero leggere. Ce n'è una che ho trovato solo sul Corriere della Sera. Elvira Serra racconta che tra poco tornerà in libertà Matteo Boe. E magari è un nome che a qualcuno suscita qualche vago ricordo. Vi vedo già adesso: Boe, Matteo Boe, questo l'ho già sentito. A fine mese lascerà il carcere dopo 25 anni, non si è mai pentito. Matteo Boe, di Lula, nel Nuorese, è accusato di essere la primula rossa o il bandito studente o il bandito dagli occhi blu, colui che metteva a segno rapimenti di persone, tra cui il rapimento forse più famoso, quello di Farouk Hassam, 7 anni, bambino, al quale Matteo Boe, anche se ha sempre negato e non si è mai pentito, tagliò parte dell'orecchio per mandarlo ai parenti in un momento in cui c'era una trattativa sui soldi che non andava avanti. Ebbene, è un uomo cambiato, dicono. Negli ultimi anni di detenzione si è dedicato all'arte, un suo disegno è diventato un francobollo di Poste Italiane. Risultato, comunque, torna in libertà dopo 25 anni, a fine mese, Matteo Boe, colui che tagliò l'orecchio del piccolo Farouk. Questa notizia la trovate, l'ho trovata solo sul Corriere della Sera. Va bene, dai, invece la carta costa una pagina intera di intervista, basta, il tormentone dell'estate, basta, quello che Alessandro Di Battista ha detto dovreste rispondere così, vi chiedono ma la proporzionale, oppure i listini, o il voto disgiunto, voi rispondete così, intonate... Despacito. Ebbene sì, una pagina di intervista a quello che ha fatto Despacito. Ce lo porteremo come tormentone per tutta l'estate. Ma chi se ne frega?